Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e non c'è purtroppo nemmeno bisogno di dirlo, ma anche oggi e anche in questo programma daremo ampio spazio al dramma che sta vivendo Giappone. Non solo, non tanto, ci mancherebbe, quella la prima cosa, i morti e i rischi sulle centrali nucleari. Avremo, vi anticipo, anche delle finestre, come stiamo facendo Radio 24 da giorni interi, di aggiornamento. Cercheremo anche di capire, mi rendo conto che il tema possa sembrare freddo, quasi cinico, ma l'impatto che potrebbe esserci sull'economia giapponese e anche sulle altre economie, le principali economie del pianeta, da questo dramma, tragedia, catastrofe, ormai gli attributi si sprecano. Devo dire che questa mattina, come presumibile, nonostante la banca centrale giapponese abbia immesso subito la notte in Italia l'equivalente di 60 miliardi di euro sul mercato, pari a 7 mila miliardi di yen, per sostenere la borsa, un po' come è avvenuto durante la crisi del 2008 e durante l'11 settembre. Ebbene, nonostante questo, la borsa giapponese ha perso il 6,20%, calo pesante, fortissimi gli scambi. Il resto dell'Asia è stato più tranquillo sicuramente, meno 1,55% a Hong Kong, per dare l'idea. Certo è che le borse europee in questo momento sono deboli, non solo sui timori di una ricaduta giapponese a livello globale, ma anche Milano è tra le meno peggio, perché perde solo lo 0,20%, Francoforte perde l'1,60%, Parigi l'1,14%, Londra perde un punto percentuale. Mano a male i titoli legati al settore energia, soprattutto in Italia, Enel, perché Enel è il principale attore nel progetto del governo di realizzare le centrali nucleari 5 o 7, vedremo, in questo paese, per avere un approvvigionamento anche di energia nucleare. Enel perde il 2% quasi, ma peggio di Enel fa Exor, meno 4,3%, quindi la finanziaria che controlla il gruppo Fiat. Non a caso Fiat Auto perde il 2,20%, e invece per quello che riguarda Fiat Industrial il calo dell'1,5%. Male di nuovo Fondiaria Assai, qui però i motivi sono quelli noti dell'ingresso dei francesi di Groupama dentro Premafin, che è la finanziaria che controlla Fondiaria Assai, ma vincolato, secondo quello che ha deciso la Consob, da lanciare un'OPA, un'offerta pubblica su Fondiaria Assai, sulla Premafin stessa. E poi Telecom Italia. Telecom perde il 2,91% nel giorno in cui sostanzialmente il mercato doveva dare un segnale sul giro di nomine, quindi Franco Bernabè che diventa presidente ma con ampi poteri operativi, e poi i vice di Bernabè, tra cui Luciani. Perché lo cito? Perché poco fa è uscita un'agenzia che sta penalizzando anche il titolo, perché Luca Luciani, che è in procinto di diventare il nuovo direttore generale di Telecom, è indagato per truffa, false comunicazioni sociali e ostacolo all'attività degli organi di vigilanza nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Milano, che è Alfredo Robledo, sulla vicenda delle SIM false. E in sostanza l'inchiesta vede al centro la gestione di alcuni milioni di carte prepagate fantasma messe in circolazione soprattutto tra il 2005 e il 2007. Indagato assieme a Luciani anche l'ex numero uno, l'ex AD, amministratore delegato di Telecom Italia, Riccardo Ruggero. Ancora vedo già molti messaggi, un po' di pazienza. Analizzeremo anche con il capo economista di Nomura, che è la principale banca giapponese ed è una delle principali banche al mondo, le attese sul PIL giapponese. Anche qui i segnali sono diversi, ci si attende chiaramente un calo dell'economia giapponese, se non un arresto in alcuni casi nelle prossime settimane e mesi, però poi tutti i soldi che verranno spesi per la ricostruzione avranno un effetto positivo, un effetto che non avremmo mai voluto vedere chiaramente, ma positivo sull'economia giapponese. Queste sono le prime attese. Un indebolimento dello yen, che però adesso si è rafforzato, questa mattina la valuta giapponese si è rafforzata, perché chiaramente il ragionamento è che in questo momento il governo dovrà stampare moneta, aumentare in qualche modo, anche comprare yen più che stampare moneta, che è un termine assolutamente scorretto in questo caso perché lo fa la banca centrale giapponese, comprare yen per sostenere la ricostruzione, quindi venderà altre valute, venderà dollari o venderà euro, e questo al di là dell'operazione della banca centrale giapponese di questa mattina, dell'emissione appunto di 60 miliardi di yen per sostenere il mercato, e allora lo yen si rafforza, ma nel breve termine, breve medio termine, le attese sono di uno yen in indebolimento. E così come la banca centrale giapponese probabilmente ridurrà i tassi di interesse o sicuramente non andrà verso politiche restrittive. Da qui a capire se questo sarà anche l'atteggiamento della Banca Centrale Europea e della Federal Reserve americana, il passo è molto lungo e quindi insomma andrei cauto. Ma ripeto, sentiremo il capo economista di Nomura, che ha una banca d'affari che ha sede a Tokyo, uffici a Hong Kong, Londra, New York, Milano. Sono quasi 30.000 dipendenti di Nomura in giro per il mondo, ma è di matrice e la casa madre è in Giappone. I titoli, continuerei con i titoli adesso, oltre a Exor, Fondiaria, Telecom, Fiat ed Enel, anche Eni cede, ce n'è l'1,80%, Luxottica meno 1,6% e Generali meno 1,5% come Finmeccanica e Autogrill, Terna meno 1,4% come Campari, Snam Rete Gas perde l'1,1% come Mediaset. Chi guadagna invece? Bene Azimut più 4%. Unicredit più 3,70%, TODS più 2,40%, Enel più 2,30%, Banco Popolare più 1,70%, Ubibanca più 1,60%, un punto e mezzo lo guadagna Monte dei Paschi, l'1,4% Intesa San Paolo, l'1,1% è il rialzo di Lottomatica, e ancora positiva Buzzi Unicem più 0,70%, Estima Microelectronics più 0,60%. Come va l'euro? Chiedete già al 349-238-6666. Beh, l'euro è un leggerissimo rafforzamento, insomma siamo a 1,3985 contro quotazione di 1,38, 1,389 la settimana scorsa, l'euro sullo yen è a 114, il dollaro sullo yen è a 81,60 in questo momento. Dicevo 349-238-6666 per i vostri sms, in le poche altre notizie in breve di questa giornata economico-finanziaria subito. Allora andiamo avanti con le altre notizie in breve. Vedo molti messaggi su Luciani, sì, ce lo ricordiamo tutti, l'abbiamo fatto sentire la cosa di Waterloo, però adesso andiamo avanti. Anche uno, è stata una gaffe, una caduta, ma uno viene valutato anche per altre cose nella vita, non per difenderlo, ma insomma. Dicevo, meno 0,80% Milano, le materie prime, oro. L'oro sale dell'1,1% oggi a 1432 dollari l'oncia. Questo è un altro effetto, sappiamo da sempre che quando ci sono disastri, tragedie come quella che ha colpito il Giappone, il primo istinto è rifugiarsi nella materia per eccellenza, il rifugio per eccellenza, mi riferisco chiaramente all'oro. Siamo vicinissimi al record storico. Chi invece è in netto calo è il petrolio, è sotto i 100 dollari, non capitava da settimane. Ora io vorrei evitare di fare un ragionamento, beh, grazie al Giappone il petrolio cala, perché insomma migliaia di morti non giustificano niente nella vita, figurarsi se giustificano il calo del prezzo del petrolio, però è un dato di fatto che il petrolio sia calato perché dal Giappone arriverà meno domanda, il Giappone resta la terza economia al mondo e quindi minor domanda dal Giappone e a questo punto anche minor domanda internazionale, a 99,4 dollari al barile, tra l'altro su questo devo dire che le attese sono di un petrolio che dovrebbe continuare a restare sotto 100 dollari al barile. Per quello che riguarda il rapporto di cambio, ripeto, si è rafforzato lo yen sia sul dollaro, che è sceso a quota 81,30, adesso siamo 81,60, che nei confronti dell'euro, adesso l'euro è risalito a 114, ma era sceso fino a 115 yen. Volete sapere che cosa sta facendo la Cina? La Cina sta aiutando, l'abbiamo visto anche nelle immagini televisive, sta aiutando il Giappone, sappiamo che i rapporti tra Giappone e Cina sono tesi, sono storicamente tesi, dal famoso massacro di Nanchino, se vogliamo andare indietro con la storia, però storicamente tesi per altri motivi. In questo caso c'è stato un gesto distensivo, umanitario soprattutto. Nel frattempo la Cina oggi ha superato anche gli Stati Uniti, non come PIL complessivo, sarebbe una notizia epocale, anche se ormai tutti se l'attendono nei prossimi anni, ha superato gli Stati Uniti nel 2010 per quanto a produzione manifatturiera, è la prima potenza manifatturiera, cioè quanto a manufatti, a beni, prodotti, non a servizi, al mondo. Lo studio l'ha fatto Global Insight. La produzione manifatturiera cinese ha rappresentato il 19,8% di quella mondiale contro il 19,4% di quella americana. Vuole sapere qual è la quota italiana? La quota italiana si attesta poco sotto il 4%, cioè i manufatti marchiati Made in Italy sono più o meno il 4% di scesa, ahimè, era il 4,5%. Inizio 2000 è scesa al 3,8-3,7% nel 2009. Il Presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, ha detto che per adesso è presto per ragionare sulle conseguenze economiche del terremoto in Giappone. Ha confermato che in Europa la ripresa economica è fragile e molto difforme a seconda degli Stati. E poi ha definito non intelligenti i tagli che dovessero alla scienza, all'istruzione e alla cultura. Sullo stesso piano anche la presidente Confindustria Emma Marcegaglia, che Barroso parlava all'inaugurazione dell'anno accademico della LUISS, che ha detto: bisogna investire nella ricerca, nell'università, nella scuola, dobbiamo fare di più e attenzione ad andare incontro a una germanizzazione dell'Europa o in sostanza a un direttorio franco-tedesco. Non sarebbe una buona scelta, non sarebbe quello di cui abbiamo bisogno. Veniamo all'altro fronte, che è quello libico. Anche qui insomma il tema è molto di carattere strategico, geopolitico, oltre che economico. I vari paesi europei si sono lentamente allineati nel chiedere l'allontanamento e le dimissioni di Gheddafi. Addirittura la Francia ha chiesto di partire subito con i bombardamenti. Ora che Gheddafi sta riconquistando terreno, la situazione diventa complicata. Che cosa ha detto la Farnesina? Ha detto che l'Italia sarà sulla stessa linea del G8, la linea che uscirà dal G8 sarà la linea italiana. Nel frattempo la Banca d'Italia ha disposto l'amministrazione straordinaria per UBAE, che è l'istituto controllato a maggioranza dalla Libyan Foreign Bank e nel cui azionariato figurano sia UniCredit che Intesa San Paolo. E poi le entrate tributarie. Siamo in Italia, chiaramente nel periodo gennaio-dicembre 2010 hanno mostrato una ripresa, più 1,6% rispetto al 2009. Si tratta di 6 miliardi e 570 milioni di euro in più. Le entrate tributarie erariali al netto della una tantum hanno fatto registrare una crescita dello 0,3%, cioè 403 miliardi in più. La Banca d'Italia poi oggi ha fatto sapere che a gennaio il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di quasi 37 miliardi, 36,7 miliardi rispetto a dicembre, però questo in buona parte è dovuto all'accumulo delle attività del tesoro presso la Banca d'Italia. È una cosa che avviene periodicamente all'inizio dell'anno. Ultima notizia e poi passiamo al tema di apertura. L'antitrust italiano ha deciso di avviare un'istruttoria contro le Poste italiane per verificare se la società con i suoi comportamenti abbia ostacolato a vantaggio della sua controllata Postella presenza sul mercato dell'azienda Selecta. Il procedimento nasce appunto da una denuncia della Selecta stessa e adesso l'antitrust, avviando il procedimento, dovrà verificare se c'è stato un ostacolo da parte di Postel, quindi delle Poste italiane, a Selecta. 349-238-6666 per i vostri sms. E allora rapidamente adesso partiamo col primo tema. Abbiamo diviso così la giornata, parleremo di nucleare adesso, e perché il tema c'è tutto, vi leggerò anche alcune agenzie. Vari paesi europei hanno deciso di bloccare tutti i progetti nucleari. Poi parleremo dei mercati, a quel punto anche le previsioni economiche fatte da Nomura sul Giappone e sull'economia mondiale ci traghetteranno tra le 17 e le 18. E allora il primo tema: il rischio che sta arrivando dal Giappone al rischio nucleare, ma soprattutto le conseguenze, queste ci sono già, sui piani energetici dei vari paesi europei. Prima di tutto l'aggiornamento, come sempre avviene, anche se ringrazio per averci raggiunto in collegamento Francesco Gullì, che è economista e insegna all'Università Bocconi di Milano, esperto di tematiche energetiche anche del petrolio. Professor Gullì, buonasera. Buonasera. Dicevo, l'aggiornamento in questo momento lo facciamo con Paolo Piacenza della nostra redazione. Sappiamo che la situazione più critica, Paolo, buonasera innanzitutto. Sì, buonasera. La situazione più critica è a Fukushima, a 3 giorni dal terremoto si lotta per evitare, inutile girarci attorno, una nuova Chernobyl. Vorrei capire come siamo messi con queste maledette barre di cui ormai diventiamo quasi tutti esperti a forza di seguire minuto per minuto l'evoluzione. Allora, l'ultima notizia che è arrivata è che le barre di combustibile del reattore 2 della centrale sono di nuovo completamente esposte dopo che il livello dell'acqua è sceso, lo ha reso noto la TEPCO, che è il gestore dell'impianto giapponese. Un esperto del settore ha spiegato al canale televisivo giapponese NHK che il livello dell'acqua è ridisceso a causa dell'evaporazione dovuta all'innalzamento della temperatura. Quindi si fa più alto il rischio di una fusione, un evento assolutamente da evitare. Nella storia la fusione del nocciolo è avvenuta una sola volta nel 1986 a Chernobyl, quando una procedura malaccorta mise fuori uso i sistemi di raffreddamento. Si è arrivati molto vicino alla fusione invece nel 79 a Three Mile Island negli Stati Uniti. La fusione totale del nocciolo venne evitata all'ultimo momento, si fuse soltanto il 25-30%. Nel caso di Chernobyl l'incidente fu di particolare gravità perché la centrale era a cielo aperto, vale a dire che il nocciolo non era chiuso in una gabbia di contenimento. La centrale di Fukushima 1 è uno dei 25 maggiori impianti nucleari al mondo ed era considerata, adesso non sappiamo più se lo possa essere considerata tale, una delle strutture più sicure, anche se un impianto ormai alla fine della sua vita operativa in funzione da 40 anni. Di fatto, nella centrale, la protezione principale dell'impianto, ovvero la grande gabbia di cemento armato che circonda il nucleo attivo, sembra abbia resistito. Ciò che è venuto meno sono le strutture accessorie. Allora, il Giappone ha chiesto aiuto agli esperti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, lo ha detto oggi il direttore della IEA, Yukiya Amano, che ha anche affermato che le radiazioni sprigionate al momento dagli impianti nucleari giapponesi sono limitate. Però la Commissione dell'Unione Europea, il commissario Günther Oettinger, ha chiesto alla IEA di convocare una riunione urgente, una riunione di emergenza, sì, per la prossima settimana. Allora, adesso arriviamo anche agli altri aggiornamenti. Ve ne do uno io, perché l'agenzia ci è appena arrivata. Il ministro dell'Ambiente Prestigiacomo ha detto che la linea italiana sul nucleare non cambia. L'ho detto nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. Ha detto non c'è nessuna sottovalutazione del problema, ma non va creato nemmeno un allarmismo rispetto a una situazione eccezionale, una calamità che è stata definita un'apocalisse in un paese ad altissimo rischio sismico. E poi la Prestigiacomo ha criticato lo sciacallaggio politico a fini domestici e la macabra speculazione messa in atto in Italia dagli antinuclearisti. Allora, professor Gullì, poi verremo a altri ragionamenti, però la prima domanda è d'obbligo. Si dice, si è detto, questa centrale del giapponese, pur essendo sicura, era del 1971. Altre centrali, delle centrali più moderne, invece sono più sicure. È un ragionamento così troppo semplicistico? Direi abbastanza di sì. Bene. Nel senso che è vero che le centrali odierne sono più sicure, ma quello che sembra essere successo nella centrale giapponese è un evento che in qualche modo esula dalle come posso dire, condizioni tecnologiche della centrale, nel senso che ciò che è venuto meno principalmente è stata l'alimentazione elettrica, prima attraverso una mancanza di connessione con la rete elettrica esterna che è venuta meno per via del terremoto. Secondo, perché lo tsunami ha messo fuori servizio i diesel di emergenza, quindi si tratta di eventi che non hanno granché a che fare con il livello di complessità e sicurezza tecnologica del ciclo, ma di eventi che sono da ricondurre in un certo senso a quelle che sono il funzionamento delle parti convenzionali del ciclo della centrale nucleare. cioè voglio dire, sarebbe bastato avere il diesel di emergenza ad una quota rispetto al mare più alta rispetto a quella che era stata prevista e che è stata effettivamente realizzata, probabilmente per scongiurare, almeno ridurre le condizioni dell'evento. Della sì, perché spieghiamo a tutti, professore, cosa è successo. Cioè, il problema non è che si è rotto qualcosa nell'impianto dovuto anche alle scosse. Cioè, l'ingresso le strutture dell'impianto, a cominciare da quelle civili, e quindi anche le strutture cosiddette di contenimento in cemento armato, come pure anche gli impianti, diciamo così, termofluidodinamici, le pompe, le tubazioni, hanno, sembra che abbiano detto, almeno dalle informazioni che abbiamo a disposizione. Ciò che vanno meno è, paradossalmente, in una centrale di così grandi dimensioni, l'alimentazione elettrica per la refrigerazione e il raffreddamento del reattore. Ma lì è entrata l'acqua, diciamo. È entrata l'acqua perché si parla dell'impianto diesel? Perché questo impianto, adesso io cerco di banalizzare per far capire a tutti, chiaramente io non sono assolutamente un esperto, si è rotto il motore che permetteva il raffreddamento, possiamo dirla così? Che alimentava i servizi, che alimentava gli apparati che consentissero la circolazione del fluido termovettore, quindi dell'acqua, all'interno del reattore, per ovviamente raffreddare il nocciolo del reattore dove sono situate le barre del combustibile, perché come ben sapete anche quando un reattore è messo fuori servizio, nel senso viene tra virgolette spento, continua a produrre calore. Se questo calore non viene asportato, la temperatura sale e ovviamente si arriva alle condizioni di criticità che purtroppo tutti oggi conosciamo. Ecco, quindi hanno tenuto le strutture pur essendo vecchie la centrale, è successo un evento straordinario, dopodiché non è che... Sembrerebbe, in base alle informazioni sì, disponibili. Sì, certo, l'evento è straordinario, voglio dire, lei dice si poteva mettere questo motore che poi permette il raffreddamento, io cerco di usare, lo so che lei non ridirà, l'esempio di un'automobile, anche l'automobile ha un impianto di raffreddamento che va ad acqua, e se si rompe il motorino che permette il pompaggio di quest'acqua, a quel punto salta tutto il meccanismo. Lei dice se avessero costruito il motore un po' più alto non sarebbe stato invaso dall'onda dello tsunami. Però... Tra l'altro anche fare una centrale sulla spiaggia, insomma, voglio dire, proprio sul mare, non è proprio il sì, diciamo che adesso sai, il senno di poi è una cosa che... Beh, in un paese, però, paese altamente sismico, certo. Storicamente la grande onda da sempre, insomma. Sì, tsunami è un termine giapponese che però vuol dire una cosa leggermente onda di porto, però sicuramente non è stato lungimirante. Detto ciò, dopo il meteo e la pubblicità, vorrei capire con lei... I nuovi impianti sono in assoluto più sicuri, perché poi in Italia stiamo ragionando del nucleare di quinta generazione, vado a memoria, sono più sicuri? Si può con tutto insieme di misure, l'Italia non ha, insomma, adesso, qua non vorrei fare gesti scaramantici né che li facessero gli automobilisti, però l'Italia non ha rischi tsunami, ha una parte del territorio a rischio sismico, diceva Bertolaso quasi 2/3, però si può immaginare di progettare una centrale con tutti i crismi, anche in caso di fortissimo terremoto e quindi nel caso dello tsunami con un motore più alto per il raffreddamento, così, oppure nemmeno le centrali nuove di nuova generazione sono a sicurezza di fronte a cataclismi come da noi potrebbe essere un terremoto di fortissimo livello? La risposta dopo il metodo della pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stiamo ragionando su quello che sta capitando a livello europeo dopo il dramma e la catastrofe giapponese. I mercati hanno chiuso a Milano meno 0,30%, malissimo come immaginabile Tokyo questa mattina, meno 6,20%, l'America perde l'1,12%, Francoforte meno 1,6%, Parigi meno 1,3%. Vi arriviamo fra un attimo. Volevo sapere però dal professor Gulli, appunto, se c'è anche un problema di centrale vecchia, mi riferisco a Fukushima, e quanto è possibile prevedere. Una risposta la devo però agli sms al 349-238-6666. Nessuno ha detto che sia prevedibile il cigno nero, visto che alcuni, o comunque che vi possa essere una prevedibilità. Non saremmo nella vita reale, esiste la stocastica, esiste la casualità, ma figurarsi, si sta solo dicendo se si riesca a avere delle centrali ancora più sicure rispetto a quelle degli anni scorsi, oppure non fosse quello il problema di Fukushima, professore? Beh, diciamo subito che le centrali di terza generazione, quelle che sono in costruzione in questo momento in Europa e quelle che sarebbero prevedibili eventualmente in Italia, sono certamente centrali più sicure rispetto a quel giapponese di cui stiamo parlando. Chiaramente però questo significa che la probabilità del rischio di un incidente rilevante è significativamente più bassa, ma non è assolutamente nulla, cioè voglio dire, rimane comunque una certa probabilità, quantunque trascurabile, che un evento estremamente infausto si possa verificare. Quindi, per quanto le centrali possono essere rese più sicure, e lo sono senza dubbio più sicure rispetto a quelle che sono state ideate progettisticamente negli anni 60 e poi entrate in funzione negli anni 70, non escludono assolutamente il rischio dell'incidente rilevante. C'è poi da dire un'altra cosa molto importante, che l'incremento della sicurezza in questo tipo di impianti avviene ovviamente a scapito dell'economicità, e quindi i costi di queste centrali ovviamente risultano essere più elevati. Queste le costringe anche ad avere una dimensione per unità, per sezione più alta, il che in qualche modo aumenta anche in un certo senso quello che potrebbe essere l'impatto di un eventuale incidente rilevante. Diversa questione se guardiamo alle centrali ovviamente di prossima generazione, cioè della quarta, quinta generazione, dove i sistemi di sicurezza passiva, cioè non basata sul funzionamento di circuiti ausiliari appunto alimentati attraverso l'elettricità, garantiscono ancora maggiori margini di sicurezza rispetto alla terza generazione. Allora, però il rischio non è annullabile. No, il rischio non è annullabile mai nella vita, cioè anche io posso prendere tutte le precauzioni che voglio, mi alzo, esco dallo studio, inciampo, batto la testa contro uno spigolo e, voglio dire, e avrete un altro conduttore domani, lo dico a chi scrive, cioè, e siamo d'accordo. Un conto è il rischio che crolli un aereo sulla centrale, alcuni di voi ci scrivono sulla Finlandia che non hanno superato le centrali finlandesi test, in quello è un rischio che va preso in considerazione, il rischio terremoto assolutamente in Italia. Qualunque rischio, cioè che scrive i meteoriti, ho capito, il meteorite a sto punto non so neanche se sia un problema della centrale o del paese stesso, non vorrei andare, è vero che abbiamo avuto l'astrologa a fare previsioni di borsa, ma non vorrei andare sulla tempesta solare del 2012 secondo i Maya, lo dico a chi scrive, cioè resterei un po' più sul tema. Cosa è successo in Europa? Allora, c'è stata la riunione, quella da cui è uscita la dichiarazione del ministro dell'ambiente Prestigiacomo, che l'Italia andrà avanti sulla sua linea sul nucleare, non c'è nessuna sottovalutazione ma nessun allarmismo, ripeto, è stata indetta oggi e anche domani vi sarà un altro incontro a 27 sulla sicurezza degli impianti nucleari, convocata a Bruxelles, la riunione con tutti i ministri dell'energia. Nel frattempo la Germania ha deciso di sospendere per 3 mesi la decisione per prolungare la vita a 17 impianti nucleari tedeschi, visto alla luce di quello che è successo a Fukushima, l'ho detto oggi la stessa Angela Merkel con il ministro degli esteri Westerwelle. 2 impianti comunque più vecchi chiuderanno subito, ha aggiunto la Merkel. E.ON, il colosso tedesco E.ON e RWE vanno male in borsa, sono andati male in borsa. Dall'Austria è arrivata la proposta di fare degli stress test, cioè dei test di tenuta per vedere la tenuta di queste centrali, per le centrali europee, non solo per le centrali austriache. Ancora la Svizzera ha sospeso tutte le procedure per le nuove centrali, e in Francia gli ecologisti hanno chiesto il referendum. Sentiamo, professor Gullick, cosa pensa un suo collega che insegna, è docente di impianti nucleari al Politecnico di Milano, membro dell'Agenzia Nucleare Italiana, mi riferisco al professor Marco Ricotti, raggiunto dal nostro Paolo Piacenza. Alcune barrette di combustibile possono essersi danneggiate e quindi essersi fessurate, quindi essersi rotte meccanicamente, e se la temperatura sale ulteriormente, quindi se io non riesco a raffreddare ulteriormente il combustibile, questo può salire di temperatura, e a 1200 gradi abbiamo appunto una, una reazione che delle guaine che produce anche idrogeno, e quella probabilmente è la causa dell'esplosione di idrogeno. Se saliamo ancora oltre i 2850 gradi abbiamo addirittura l'inizio della fusione del combustibile, cosa che tra l'altro era avvenuta, adesso lasciando Chernobyl, è una cosa che è avvenuta anche a Three Mile Island. Cioè a Three Mile Island oltre il 30% del combustibile si è danneggiato e fuso. In quel caso però, essendoci il contenitore di sicurezza, tutto è rimasto all'interno di questo. E quindi anche in questo caso è decisivo il ruolo dei contenitori di sicurezza? Certamente è decisivo il ruolo sia del contenitore in acciaio che contiene il combustibile, sia il ruolo del contenitore di sicurezza, che è la seconda barriera. Entrambi sono importanti per mantenere lo scenario simile a quello di Three Mile Island, ecco. Il pompaggio dell'acqua di mare con cui stanno contenendo l'abbassamento del liquido ha la capacità, la possibilità di bloccare un processo di fusione parziale, cioè un processo di fusione iniziato? Sì, direi che l'acqua di mare, ecco, non è la scelta ottimale, perché ovviamente sarebbe meglio avere acqua demineralizzata come è normalmente sugli impianti nucleari, però certamente in casi così apocalittici ed estremi come questo va benissimo anche l'acqua di mare, ecco. Allora, chiaro anche quello che pensa il suo collega, il professor Gulli, più tecnica questa parte. Devo dire, darò dopo il traffico una risposta a chi dice, mi dia però anche il suo commento, visto che ce l'ho in diretta, professor Gulli, a chi dice, sì, ma il problema dell'Italia è che qua mettiamo il cemento annacquato, abbiamo visto crollare la casa dello studente all'Aquila, cioè non siamo in grado di costruire in maniera sismica, siamo un paese in cui l'abusivismo edilizio e il rispetto delle leggi è così basso che è un rischio troppo alto per il sistema Italia. Io dico che se però la si pensa così non si fa niente in questo paese, non si fa proprio nulla, però... vorrei capire, professor Gulli, secondo lei dopo quello che è successo, conoscendo l'Italia, si bloccherà tutto, sarà troppo politicamente costoso andare avanti sul nucleare, stiamo comunque ragionando di una cosa che ci vorranno 10 anni a far partire, mi dica. Allora, la mia posizione al riguardo della competitività dell'energia nucleare è stata sempre in termini relativi, nel senso che l'energia nucleare può essere ed è competitiva, ma dipende dai paesi in cui viene realizzata, oltre che dal tempo ovviamente in funzione dell'andamento dei prezzi dei combustibili fossili alternativi, petrolio, gas naturale, eccetera, ma anche dallo spazio, nel senso che la costruzione la realizzazione di un ciclo nucleare, che è particolarmente complessa, richiede un apparato amministrativo, istituzionale ed anche culturale particolarmente efficiente ed efficace. Questo significa che può essere il nucleare competitivo dal punto di vista dei costi, ora non parlo solo della sicurezza, in determinati paesi che hanno questo apparato istituzionale, amministrativo, anche politico, culturale molto efficiente ed efficace, come possono essere ad esempio la Francia, e può esserlo o meno invece in altri paesi. Resta da stabilire se l'Italia ha una capacità organizzativa, amministrativa capace di supportare una massiccia realizzazione delle centrali nucleari o meno, o se è in grado comunque di acquisire queste capacità nel breve e medio termine. Sì, quanto al tema delle scorie, adesso la puntata non è solo sulle centrali, attenzione, è vero che c'è il tema delle scorie, infatti il nucleare si dice spesso è un sistema, non basta fare la centrale, deve avere anche lo smaltimento e quant'altro, però non vorrei che ci dimenticassimo che in questo momento noi produciamo 70% di energia bruciando petrolio in larga parte, in realtà poi c'è anche il gas, e non è che le petroliere non inquinino e le emissioni di CO2 non contino, perché sembra che adesso produciamo energia solo verde. Comunque, grazie intanto al professor Francesco Gulli, che insegna appunto, è economista all'Università Bocconi di Milano ed è esperto di tematiche energetiche, il traffico, poi la borsa con il caso Telecom e poi invece il Giappone, cosa capiterà all'economia giapponese. 349 238 6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, vedo ancora molti messaggi, c'è chi dice, io, a me non piace chiamarli pro nucleare o contro il nucleare, sempre Guelfi, Ghibellini, io non sono né pro né contro, cerco di capire. Comunque c'è chi fa notare che comunque siamo circondati da centrali nucleari, ce l'ha, l'Enel addirittura ne ha alcune nell'ex Repubblica Cecoslovacca, e la Francia le ha più vicine, alcune di queste all'Italia che altre regioni francesi, cioè più vicine al Piemonte e al nord-ovest che altre regioni francesi, e sappiamo chi era già nato ai tempi di Chernobyl, si ricorda che cosa capitò lì per l'onda di Chernobyl, non si mangiava l'insalata in Italia, l'insalata italiana, non quella dell'Unione Sovietica, per cui insomma su quello c'è del vero. Altri dicono attenzione, non ci si può fidare di questo paese, iniziamo a ripulire l'immondizia di Napoli, sì, adesso mi sembra un po' tutto in questo caso pretestuoso, però e siamo un paese in cui la camorra traffica con le scorie, questo avete ragione, cioè è chiaro che come diceva prima Gulli, le centrali nucleari prevedono un paese serio, rigoroso, che faccia sistema su questo. Su qui qualche dubbio ce l'ho anch'io, non è che vivo nella Repubblica di San Marino. Ancora c'è chi fa notare invece che nel 1908 il terremoto di Reggio e Messina ha originato un maremoto con onde tra i 6 e i 12 metri, 12 metri e 80.000 morti. È vero, infatti io penso che dovunque si possa costruire una centrale nucleare, tranne che nei luoghi sismici, questo mi sembra quasi una banalità. Andiamo sulla borsa. Allora, meno 0,27% Milano, meno 1,30 Parigi, meno 1,60 Francoforte, meno 1,1 in questo momento l'America, meno 0,90 Londra, meno 1,5 questa mattina Hong Kong, e meno 6,20% il Giappone. Leonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Ecco, allora, giornata tragica, lo ricordo anche a chi ci scrive, stiamo ragionando di quello che è successo in Giappone da un punto di vista del profilo economico, degli investimenti industriali, della borsa, ma non c'è nessun cinismo né nessuna così allegria da parte nostra quando parliamo di migliaia di morti. Eleonora Micheli, l'effetto Giappone sui titoli a partire da quelli energetici. Sì, come hai detto tu, ovviamente l'effetto si è fatto sentire su tutte le aziende che sono in qualche modo legate a progetti nucleari. In Italia ovviamente si è fatto sentire sulle Enel, che hanno accusato sul finale un calo dell'1,69%, recuperando comunque dai minimi di giornata. Sono andate bene per contro, ad esempio le Enel Green Power, in questi momenti si va ad apprezzare soprattutto le società che invece investono in energie, in progetti di energie alternative. Ovviamente poi ha fatto male a tutto il comparto del lusso, ricordiamo che secondo gli esperti il Giappone rappresenta uno dei mercati più importanti, rappresenta l'11% del mercato globale del lusso. In Giappone vengono venduti circa 18 miliardi di prodotti di euro, di prodotti di alta gamma, le principali società del settore sono ben presenti appunto nel paese del Sollevante. Così sono andate male un po' tutte le azioni del comparto. Ho fatto eccezione in Italia di TOZ, che ha vantato un progresso dell'1,77% sul sostegno dei conti del 2010, chiusi in utile, con un utile magari superiore all'attese, è salito del 28,6% a 110,8 milioni. Hai fatto bene a ricordarlo. Della vicenda Telecom parleremo dopo, perché doveva esserci oggi, come ricordavo, il giudizio del mercato sulle nuove nomine Telecom, quindi Bernabé presidente ma con delle cooperative, Luciani direttore generale. È arrivata invece la notizia dell'inchiesta della magistratura e che anche Luca Luciani è indagato per truffa, il titolo ne ha risentito. Vorrei fare anche un ragionamento con te sui titoli di Stato. C'è chi dice che in questo momento il maggior problema è che il Giappone ora difficilmente potrà, io dico in maniera sicura che non lo farà, potrà comprare titoli del debito europeo come promise l'anno scorso, come fece anche nel caso del Portogallo. Questo è sicuramente un impatto. Comunque ci risentiamo dopo il GR anche per intervistare il capo economista della Nomura sugli effetti economici di questa tragedia e cataclisma sul Giappone. We'll be right back. 18 e 9 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. E allora, dopo aver dedicato la prima parte sul nucleare, io capisco tutto, capisco anche che parlarne in questo momento comporti un tasso di emotività molto forte. Vorrei concludere però l'approfondimento di borsa con Eleonora Micheli. Abbiamo già chiarito l'impatto su alcuni titoli della tragedia giapponese, nel caso specifico Enel per il progetto, perché capofila del progetto nucleare italiano. Il ragionamento che hanno fatto alcuni ascoltatori sull'ipotesi che il Giappone a questo punto non compri più debito europeo, Lisbona, debito spagnolo, debito portoghese, come è avvenuto inizio anno, ha avuto qualche ripercussione sui mercati, Leonora? Ma sì, senza dubbio le borse europee sin dalle prime battute di questa mattina hanno aperto in calo e hanno chiuso anche in calo. Piazza Affari è andata meglio grazie al sostegno delle banche che peraltro sono andate bene in tutta Europa per altre motivazioni. Evidentemente comunque i mercati hanno assolutamente risentito. Per adesso comunque non c'è panico, non si sono fatti ragionamenti di questa sorta. Ancora per quello che riguarda i titoli, Azimut più 4%. Azimut si è messa in evidenza sin dalle prime battute, questo più 4% è dovuto al fatto che la società pare inizi, almeno a detta degli esperti, a raccogliere i frutti della politica che sta portando avanti per migliorare la raccolta fondi, e poi ha incassato una serie di giudizi positivi che quindi hanno incoraggiato gli ordini in acquisto. E poi la Galassia Ligresti, di nuovo l'ipotesi, anzi il fatto che Groupama si sia bloccata nell'ingresso per via dell'obbligo Consob di lanciare un'OPA sia su Premafin che su Fondiere SAI, il titolo oggi perde il 3,35%. Sì, perde il 3,35%, male anche Premafin, meno 3,38%, e male anche Milano Assicurazione, meno 2,99%. Ha prodotto un eco anche la lettera all'investitore pubblicata dal Sole 24 Ore nel fine settimana, che dice che Fonsai dovrebbe agire il prima possibile sul capitale senza attendere le mosse di Groupama o il riassetto azionario, visto che il margine di solvibilità della compagnia assicurativa è purtroppo a un soffio dal limite imposto anche dalle autorità. Ancora invece su Fiat, meno 2,60%, molto male Exor, meno 4,32%, il peggior titolo tra quelle maggiore capitalizzazione, e anche oltre a Fiat, inteso come auto, anche Fiat Industrial, cioè camion e trattori, perde l'1,5%. E anche in questo caso è un po' l'effetto Giappone, si sta ragionando su quelle che saranno le ripercussioni della catastrofe su tutto il comparto auto, e quindi è andato male tutto il settore europeo, tra l'altro anche i titoli giapponesi sono letteralmente crollati, quelli del settore auto. Su Fiat comunque ha pesato anche la stima pubblicata da Global Insight, secondo cui le immatricolazioni di febbraio in Europa dovrebbero accusare un calo del 17,3%, con una quota che peggiorerà dal 9,4% al 7,7%. Comunque il 16 marzo, tra due giorni, quindi l'ACEA renderà noti i dati effettivi. E poi la vicenda che riguarda invece Telecom Italia. Dicevo, oggi il debutto sul mercato delle nuove nomine: Franco Bernabei diventa presidente ma con deleghe operative, Luca Luciani diventa direttore generale. Che cosa succede però nel frattempo? Che si viene a sapere intorno alle 15:30 ora italiana che il procuratore di Milano Alfredo Robledo ha indagato per truffa, false comunicazioni sociali e ostacolo all'attività degli organi di vigilanza proprio Luca Luciani, quello che sta per diventare il nuovo direttore generale di Telecom. La vicenda riguarda le carte prepagate fantasma messe in circolazione soprattutto tra il 2005 e il 2007, quindi in un periodo in cui Franco Bernabei non era ai vertici di Telecom Italia, e infatti indagato è anche l'amministratore delegato di allora, Riccardo Ruggero. Le reazioni? La reazione è stata repentina per il mercato. I titoli Telecom nel pomeriggio dopo la diffusione della notizia hanno iniziato a perdere colpi. Questa mattina erano abbastanza stabili sui prezzi di venerdì, nonostante peraltro il settore europeo delle TLC fosse abbastanza debole. Nel pomeriggio invece hanno iniziato ad andare giù, hanno chiuso con una flessione del 3%, e ovviamente intimorisce proprio il fatto che Luciani, che sta per diventare direttore generale, sia indagato. Poi proprio ora a borsa chiusa è uscita effettivamente la lista dei nomi che Telco, la scatola, ricordiamo che controlla il 22,5% della compagnia telefonica, presenterà all'assemblea appunto per rivestire le cariche di membri del consiglio di amministrazione. Compaiono i nuovi nomi di Patuano, che come hai detto tu dovrebbe essere l'amministratore delegato dell'Italia, anche di Sentinelli, che non era nel consiglio di amministrazione. Scusa, chiedo Venia per la profonda ignoranza, ma cos'è War Italy One Investment, che oggi ha perso il 49%? Boh, non lo so, è un titolo che mi appare, se no lo chiedo veramente. Mentre cerchiamo di scoprire questo, Cell Therapeutics oggi ha guadagnato il 48%. Sì. Cell Therapeutic, no, per quanto riguarda l'altro titolo dobbiamo ricercare, eravamo... No, veramente, no, ma lo capisco, perché io spero che non sia un hacker, mai vista una cosa del genere, se lo butta a ridere, per carità. Renault meno 8,60, Mondo Home Entertainment meno 7,60, E.ON, e qui c'è l'effetto Giappone, E.ON è il colosso tedesco dell'energia anche nucleare, meno 6,45%, Dada meno 6,38%, dicevo molto bene invece CareSelf più 9,90% e Cell Therapeutics più 48%. Sì, Cell Therapeutics ha annunciato di aver sottoscritto un accordo di licenza con un'altra società, Chroma Therapeutics, e evidentemente appunto questo accordo piace al mercato. Grazie, poi magari domani, quando avremo modo, se scopriamo cos'è War Italy One Investment, adesso magari ci andiamo anche su internet in regia, giusto per capire. Grazie intanto allora Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore, il traffico e poi di nuovo il Giappone, questa volta non più il fronte nucleare e quindi l'impatto anche sui progetti europei, ma il Giappone, i rischi sull'economia giapponese, le previsioni del capo del centro studi della banca giapponese d'affari, colosso mondiale Nomura, tra qualche minuto. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti, allora raccontiamo anche che cosa è successo in Giappone sul fronte economico, questa volta non più nel nucleare. Al di là del calo del 6,20% della borsa di Tokyo e del rafforzamento dello yen, adesso cercheremo di capire perché, la banca centrale giapponese ieri notte ha immesso sul mercato 7.000 miliardi di yen, vuol dire qualcosa come 60 miliardi di euro per sostenere la borsa. Non è che l'effetto vi sia stato, ma comunque dare liquidità, come un po' avvenne nel 2008 con la banca centrale europea sulle banche europee, non mandare in panico il settore creditizio. E poi ha aggiunto altri 45 miliardi di euro, cioè 105 miliardi praticamente, 12 mila miliardi di yen, due ore dopo. E poi sempre la banca centrale giapponese ha deciso di aumentare, portando a 44 miliardi, le risorse al servizio dell'acquisto di asset garantiti da collaterale, una cosa un po' tecnica, insomma anche qui è un'iniezione di liquidità, si butta carta, liquidità, moneta sul mercato per evitare il rischio di stretta sul credito. I tassi di interesse in Giappone sono a zero, tra 0 e 0,1%, l'agenzia di rating Standard & Poor's ha detto che non vi sarà alcun effetto immediato sul voto del Giappone. La Toyota ha dovuto bloccare la produzione fino a mercoledì e quindi circa 40.000 vetture in tre giorni non verranno prodotte. La Nissan ha sospeso l'attività in 6 stabilimenti fino al 16 marzo. Ancora, il Presidente europeo Barroso dice che è presto per pensare alle conseguenze economiche e comunque anche l'Europa è preoccupata sull'impatto che potrà avere la tragedia in Giappone. Volete sapere quanto è il PIL giapponese? Insomma, vale, è il terzo PIL al mondo, sono 5.400 miliardi. L'area colpita, per fortuna, insomma, se di fortuna si può parlare con migliaia di vittime, non è l'area economica più forte del paese, ha un PIL che non supera i 200 miliardi di dollari. L'anno scorso l'economia giapponese si era ripresa molto bene, quasi 4% di rialzo. Già nei primi tre mesi aveva mostrato segnali di di rallentamento e adesso insomma questi segnali andranno a peggiorare chiaramente. Il Giappone è anche il debito però più grande al mondo, ecco perché si dice sempre in rapporto al PIL l'Italia è il numero 2 o il numero 3, il 200% del PIL. Le prime stime indicano un impatto di questo disastro pari a 50 miliardi di dollari, però vorremmo capire di più. Poco fa abbiamo intervistato, poco prima che iniziasse Focus Economia, Peter Westaway, che è il capo economista di Nomura, appunto banca d'affari giapponese con sede a Tokyo, Hong Kong, Londra, New York, Milano, 30.000 dipendenti. La prima domanda gli abbiamo chiesto se si aspetta una borsa ancora debole e quale sarà l'impatto complessivo sull'economia da questa tragedia. Siamo ancora in una situazione molto incerta. È troppo presto per pronunciarsi sia sulle conseguenze per l'economia che per i mercati. Un modo per capire cosa potrebbe accadere sui mercati è andare indietro al terremoto di Kobe nel 1995. E la cosa interessante è che allora, quando la borsa ha riaperto, il Nikkei è calato più o meno come oggi, intorno al 6%. Ma dopo un paio di settimane c'era stato un rimbalzo, anche se era ancora sotto del 3% rispetto al periodo prima del terremoto. E poi abbiamo chiesto sempre al capo economista di Nomura se anche questa volta potrebbe accadere quanto è venuto dopo il terremoto di Kobe, cioè una ripresa paradossalmente dell'economia, oppure le perdite saranno più alte di conseguenza sia per i mercati e, di conseguenza, e per l'economia giapponese, di conseguenza questo non permetterà di avere l'effetto Kobe, se così vogliamo chiamarlo. È molto difficile dirlo, ma credo di non sbagliare dicendo che questa volta l'impatto potrebbe essere maggiore, semplicemente perché la portata sia della perdita di vite umane che dal punto di vista economico sembra crescere con l'andare del tempo. E certamente una grande incertezza circonda la situazione dei reattori nucleari. Per ciò che riguarda l'impatto sull'economia, pensiamo che le conseguenze maggiori sul PIL saranno nel secondo trimestre dell'anno. Crediamo che intorno all'estate o l'autunno l'effetto complessivo peserà intorno all'1% del PIL. Da lì in poi, invece, il tasso di crescita andrà nella direzione contraria, perché si farà sentire la spinta degli investimenti per la ricostruzione ed entreranno in gioco le misure di stimolo da parte del governo. Quindi verso la fine dell'anno la crescita sarà positiva e il prossimo anno vedremo un totale recupero delle perdite. Ma ci vorrà molto tempo, perché il colpo è stato molto duro anche per il potenziale produttivo del Giappone. E poi la seconda o terza domanda che abbiamo posto al capo economista di Nomura è se la ripresa, avete sentito, dice in sostanza primi mesi, secondo trimestre, un calo anche netto del PIL nipponico, poi invece una ripresa forte come effetto anche della ricostruzione, chiamiamola così, degli incentivi, dei soldi che verranno messi per ricostruire il paese. Gli abbiamo chiesto se questa ripresa potrà riequilibrare la perdita, diciamo, dovuta al terremoto iniziale nell'economia giapponese e se come effetto in Europa di questa dramma giapponese le stesse banche centrali europee, la Banca Centrale Europea, potrebbero ripensare alla loro politica, cioè di aumentare i tassi di interesse di fronte a una frenata dell'economia giapponese, a un calo del prezzo del petrolio. La risposta? Penso che nel lungo periodo questo accadrà, ma non credo che il mercato azionario rimbalzerà nel giro della prossima settimana. Penso che ci vorrà un po' di tempo per questo. Inevitabilmente, quando c'è un disastro di tale portata, una buona parte del mercato reagisce con molta incertezza. C'è ancora un grande punto interrogativo su come verrà risolta la questione nucleare, su quanto veramente gravi sono i danni all'economia, e quindi è ragionevole pensare che il mercato sarà cauto ancora per un po'. Man mano che questi problemi verranno risolti, allora il mercato si calmerà. Ma anche se ignoriamo l'aspetto nucleare, ci sono altri rischi al ribasso. Questo è stato un colpo durissimo per l'economia giapponese e per la psiche dei giapponesi. L'economia era già fragile, sarà un duro colpo per la fiducia dei consumatori. Ed è per questo che pensiamo sia molto importante che il governo e la banca centrale adottino misure aggressive. Questo per dare un chiaro messaggio e dire che non lasceranno che l'economia scivoli in una fase di contrazione. Penso che queste banche centrali terranno conto del contesto giapponese quando stileranno le previsioni di crescita in Europa e negli Stati Uniti. La realtà però è che sebbene il Giappone sia la terza economia al mondo, ha un impatto molto piccolo per ciò che riguarda l'export sui mercati europei. Quindi non crediamo che ci saranno conseguenze importanti sulle decisioni della BCE. Si potrebbe obiettare che una delle conseguenze degli eventi in Giappone sarà un aumento della domanda di materie prime per dare benzina alla ricostruzione, e questo potrebbe aumentare la pressione sui prezzi nei mercati emergenti. Questo potrebbe favorire il rialzo dell'inflazione che vediamo in questo periodo. Alla fine, quindi, potremmo avere tassi di interesse più alti nel lungo termine. Ultima domanda che abbiamo posto a Peter Westway, capo economista di Nomura, è l'impatto sullo yen, perché oggi abbiamo visto uno yen rafforzarsi, immaginando che il Giappone debba vendere altre valute e acquistare yen per la ricostruzione. Volevamo capire se questo yen forte è una cosa che durerà. Penso ci siano anche altri due fattori sui quali concentrare l'attenzione. Uno riguarda il fatto che quando i mercati sono preoccupati dai rischi, tendono a gravitare su una valuta in particolare, come il dollaro o lo yen, e allontanarsi dalle valute dei mercati emergenti. Penso quindi che ora lo yen sia, per così dire, infiammato a causa dell'incertezza globale. La seconda ragione è più tecnica e ha a che vedere col fatto che una delle conseguenze delle grandi richieste assicurative, come risultato da questo enorme disastro, sarà che molti fondi dovranno essere rimpatriati in Giappone, e questo paradossalmente porta a un flusso di denaro, di capitale, che tende a mettere le ali allo yen. In questo scenario si può dire che la banca centrale probabilmente terrà i tassi bassi per più tempo, perché c'è bisogno di stimolare l'economia, e questo potrebbe, in un orizzonte più lungo, spingere al ribasso lo yen. Staremo a vedere, era importante sentire, ripeto, al di là di ogni cinismo, la vera notizia della tragedia umana e i rischi nucleari, sentire anche le prospettive economiche. Volete sapere se Luciani di nuovo è quello di Waterloo, di Napoleone che ha vinto a Waterloo? Sì, è lui, ma non penso sia attinente. Invece è attinente una notizia appena battuta, è il motivo per cui è indagato per truffa aggravata. Lo sapendo adesso dalle agenzie, è perché la truffa delle SIM false rientrava in una precisa strategia aziendale di Riccardo Ruggero, allora mi sono legato ai Telecom, e Luca Luciani. Questa è l'accusa del PM Alfredo Robledo. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata, ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.